la derrota. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, iniziamo in ritardo questa sera, purtroppo abbiamo avuto qualche problema logistico, portare dentro strumenti, mangiare mi fa segno qualcuno, ma insomma quello è successo ormai parecchio tempo fa, abbiamo già anche digerito, c'era da portare dentro qualche strumento, dicevo, perché questa è una sera particolare, abbiamo dei musicisti in studio, abbiamo in particolare una musicista che arriva dall'altra parte dell'oceano, avrei detto New York City, ma ho scoperto che non vive più a New York City, anche se nel mio immaginario è sempre stata legata alla grande Mela. È una musicista che da sempre seguiamo, anche se le sue tracce saranno un po' perse negli anni. Ci racconterà un po' lei anche la sua storia. È qui con noi questa sera Caroline Mas. Thank you very much for being here, Caroline. It's totally my pleasure. Thank you for having me. Welcome, first of all. Caroline è accompagnata da un musicista italiano, Andrea, non mi ricordo il cognome, scusa. Lupi. Andrea Lupi, detto Lupo, che come potrete forse notare dal leggerissimo accento è toscano ed è un bravissimo bassista che sta accompagnando Caroline nel suo tour italiano, che è giunto circa a metà strada, se non vado errato. È un tour piuttosto lungo, ieri sera ha suonato a Ferrara, come si chiamava, Accademia della Musica? Accademia della Musica, bellissima struttura gestita da musicisti, fantastico. Bellissimo. Una cosa che a Padova non abbiamo, devo dire tanto di cappello alla città di Ferrara e alle sue istituzioni, quello che è, insomma, che hanno sempre spinto molto la musica. E Caroline è qui con una tastiera, c'è il basso di Andrea, quindi ci sarà della musica dal vivo. E prima ci ascoltiamo un brano da uno dei suoi dischi, questo è tratto da un best, si intitola Tender. Volevo chiedere, Caroline, why did you choose Tender to start the show? Perché hai scelto Tender? Because it's a song that we're playing now, and it's a live version that perhaps I think many people haven't heard in this country. It was from a live record that was released in Germany. Ok, si dice una canzone che sta proponendo anche in questo tour ed è in particolare la versione che andremo ad ascoltare adesso è presa da un album dal vivo che in Italia non è mai arrivato perché era distribuito solo in Germania, quindi ha pensato, insomma, che fosse una cosa un po' inedita per il nostro mercato. Questo è Tender, Caroline Mas, e poi ce l'avremo qui dal vivo su Blu Radio Veneto. Buon ascolto. Difficult to please, but with you it's easy. Sometimes I feel like I was born on my knees, but for you it's easy. Open up your pretty eyes, a little bit surprised to find myself loving you. Open up a little crack, this is a heart attack, and I'm busting on through. And you can wake me up in the middle of the night. You can call my name, you can do me right. And I know, baby, when you hold me tight, it's gonna be tender. Too much being wrapped around your finger. No, baby, sometimes I feel like I should have been born wrapped around your finger. 'Cause when you came, freight train knocked me down, kind of love, like the love that you do. I always look both ways, but honey, you came right out of the blue. And you can wake me up in the middle of the night. Call my name, you can do me right. And I know that, baby, when you're holding me tight, it's gonna be tender. It's gonna be tender. it's gonna be tender. Allora, mentre andava questa canzone, Caroline ci ha raccontato la storia di questa registrazione dal vivo, che è qualcosa di pazzesco. Lei aveva scritto questa canzone il giorno prima e l'aveva suonata in acustico nel concerto precedente. La sera successiva dovevano registrare un live, sapevano che c'era la registrazione. Lei è andata sul palco per cantare la canzone in versione acustica e i suoi musicisti, senza dirle niente, hanno cominciato a suonare, l'avete sentito dopo la prima strofa, e adesso nella registrazione non si nota, ma lei si è girata di colpo perché non sapeva che loro fossero saliti sul palco e li ha sentiti cominciare a suonare. È stata per lei una totale, assoluta sorpresa, e buona parte di quello che sentite poi qua sulla coda del pezzo era improvvisazione. Penso che questo sia la quintessenza del disco dal vivo. I think this is the perfect live recording because everything is so spontaneous, tutto right, è spontaneo, yeah. And it's the thing happening in the moment, in the place, in time. Right, and like, I don't think you see that much of that sort of thing anymore, and that's sad because, you know, I just think in general, maybe in America there's not enough of these kinds of live records. Maybe they seem to happen more over here. And I don't know why not, because it's so, the overhead is low, and what a great thing to do records the old-fashioned way. Si dice che queste cose così spontanee, improvvisate, una volta succedevano di più. Secondo lei in Europa succede ancora qualche volta, ma in America è tutto molto più come dire, organizzato, preparato, e questo toglie un po' di spontaneità alla musica. È molto bello comunque che sia stato preservato questo momento. I think I'm saying that it's very nice that that moment, that special moment, is being kept for to be heard, to be heard in the future. And I think that used to happen more in music, but it's happening less and less. Si dice che dovrebbe succedere più spesso, invece è sempre meno. Forse perché i musicisti, anche quelli giovani, ci tengono ad apparire molto, molto seri, molto professionali. Maybe because people really cares about looking perfect, professional and straight. Maybe it's because nobody can sing anymore either. Oh, dice, forse anche perché la gente non sa più cantare così in maniera spontanea. There's a lot of stuff that's created in the studio that you know, people cannot duplicate it live. Si dice molte cose vengono create direttamente in studio, quindi c'è in giro molti musicisti che preferiscono non farsi sentire dal vivo. Devo dire, non è questo il caso di quelli che vengono a trovarci. This is not what's happening here, because everybody who comes here, as you can see, snuff, no tricks, no gimmicks. Yeah, sì, qui non c'è nessun trucco. Quello che sentite alla radio a casa vostra è esattamente quello che succede qui, anche perché non avremo i mezzi per creare artifici o modificare le cose. È esattamente quello che succede davanti ai nostri semplici microfoni. Tutto viene infilato direttamente nelle onde radio e ha la sua strada, la sua vita. Io direi intanto di chiedere a Caroline di suonarci un primo pezzo dal vivo, poi ci sono molte domande da fare. We have many questions, but we would like also to hear you sing, of course. La prima canzone, you said that the first song will be in the box. In a box. This I wrote for a play that I did in Tampa in 1994. A play? What you mean with the play? A musical production, yeah. Ah, sì, questa è una canzone scritta per una produzione teatrale, quindi un tipo un musical in a Tampa. Tampa is where? In Florida. In Florida, scusate, è difficile ricordarsi tutto. E in effetti questa è una canzone nello stile proprio del musical. This is a song that sounds like a musical. I mean, I was in this musical and they asked me to write a song to replace one of the songs in the musical. Ah, quindi lei era you were part of a cast. Yeah, a cast of six people. Lei faceva parte del cast del musical e le hanno chiesto di scrivere una canzone per sostituire uno dei pezzi che erano stati preparati, e quindi lei ha scritto questo brano che si intitola In the Box. E allora ci ascoltiamo a Caroline Mass dal vivo qui su Blu Radio Veneto, finalmente dopo tanti anni. In a box, in the corner of the closet, in the attic, I have hidden all the trophies of my youth. An ID with Lenny's name, a pressed rose found an old flame, the tattered pages of my history's proof. And I guess there's things about that you've forgotten too, like the A's I got in our class for the pictures that I drew. One night I played clarinet outside of Michael Katz's window after two. In a corner of the closet, in the attic, they are dusty, broken, oh, but I don't care. They are mine and mine alone, and I can visit them at home, and my husband doesn't know that they are there. And I guess there's things about me that he's forgotten too, how he laughed at me one summer for the pennies that I threw into a fountain at Central Park, making wishes for what never would come true. The closet, in the attic, caressed and then carefully put away. Like the dreams that I once had, or the things that make me sad. The clarinet I can no longer play. And I guess there's things about me that I've forgotten too. How I got to be so boring the older that I grew. And I'd probably fall asleep outside of Michael Katz's window after two. Ooh. In a box, in a corner of the closet, in the attic. I have hidden all the trophies of my youth. Whoa, whoa, whoa, whoa. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era In the Box, come avete sentito, un brano costruito nel classico stile dei musical di Broadway. To me it sounds like a classical song for a Broadway production. Yeah, right. The play was called Is There Life After High School? And it's funny. Lo spettacolo si intitolava Is There Life After High School? Cioè c'è vita dopo le scuole, il liceo, insomma. È simpatico come tipo, nice title. Yes. And did you play also in Broadway? Or did you work in Broadway? No, it was with the Tampa Bay Theater Company. E questa era solo per la Tampa Bay Theater Company. It ran just one weekend. Oh. All that work just for one weekend. Un sacco di lavoro e poi hanno fatto pochissime repliche. Ieri sera sono stato appunto a Ferrara a sentire Caroline che suonava con Andrea naturalmente, e io insomma ricordavo i suoi dischi vecchi che erano molto rock, e adesso invece lei dal vivo spazia attraverso una grande varietà di generi musicali. I was a little bit surprised yesterday because I knew your old records and I knew you as a rock singer basically, yeah. With some rhythm blues influences, but yesterday you played 10 different kind of music. Ieri è passata dal Tom Waits al blues del Mississippi a cose un po' jazzate, swing al pop, insomma ha fatto 10 cose diverse. E allo stesso tempo prima mi diceva che ha cambiato, ha vissuto in 12 stati diversi, sembra che voglia vivere mille vite. You play different 10 different style of music, you lived in 12 different states, you want to live 10 different lives probably. But you've got it, that's exactly exactly right, you're right, because and that's one thing I always thought was a good thing. I grew up listening to everything. My parents were Spanish. I had an influence of classical music, very much so. Broadway music, very much so. Latin music, French music, anything, everything. Yeah. And then pop from my era. Si dice, in effetti ci ho azzeccato, mi ha detto, perché lei è cresciuta ad avere dei genitori spagnoli, latini, messicani penso, ed è cresciuta ascoltando tantissimi generi musicali. Tra l'altro prima mi ha detto che suo padre cantava un po' l'opera, quindi è cresciuta con la musica classica, con la musica latina, col pop, che si sentiva chiaramente quando si è giovani, si sente anche quello, e è appunto un crogiuolo di diverse influenze, col musical. E le piaceva un po' tutto. Everything, and the thing I've always really felt that when I first started getting into the music business, it was all about limiting you, taking away each of those things that you know how to do to put you into one slot. Ok, si è detto che la cosa che ha scoperto quando è entrata nel business musicale, quando ha avuto un contratto discografico, è che loro cercano di toglierti tutte queste cose per infilarti in un punto ben preciso. Ti eliminano le cose che non c'entrano con quello che è la loro idea che tu devi essere, e vogliono che tu sia solo ed esclusivamente quella cosa là, probabilmente perché è chiaramente una cosa più facile da vendere, because it was easier to sell, I suppose. Right, even though they don't do a good job doing that, but they still dice, anche se non fecero un buon lavoro nemmeno da quel punto di vista, con la sua storia con la Mercury Records è un classico. Yeah, just resuming for the people, lei fece un disco che portava il suo nome was it 1979? Nel 79, Mercury Poisoning ha citato una canzone di Graham Parker che finì nello stesso tritacarne dei musicisti, questa etichetta che era gestita da dei manager totalmente incapaci. Lei fece un disco, appunto, Caroline Mass, che anche riascoltato adesso dopo tanti anni ha dentro 5 hit single fondamentalmente. È un disco che poteva vendere, non so, milioni di copie. Ebbe un certo successo, ma molto limitato, perché addirittura la distribuzione fu un disastro. Lei andava a suonare in città dove andavano a vedere la migliaia di persone, nei negozi non trovavano i dischi. I read that you played 4,000 people and the records were not available in shops. So these people were completely useless, these people from the label, I mean, questa gente dell'etichetta non era nemmeno capace di fare il lavoro di venditore, perché quello era un disco che si poteva vendere da solo, insomma, era pieno di canzoni orecchiabilissime, di grande, molto radiofoniche anche, diciamo. And at the time, I think Billboard wrote an article that said that I was Mercury's best kept secret. And they got really even more angry. Sì, allora, Billboard, che è il giornale musicale, che è un po' la Bibbia del mercato discografico, infatti quando si fa riferimento alle vendite discografiche, Billboard è la rivista, quella affidabile, e scrissero in un articolo che Caroline era il segreto meglio custodito della Mercury, cioè che è un controsenso chiaramente per un'azienda che esiste per vendere dischi non fare sapere in giro che hanno un potenziale hit. Ma questa è una storia che secondo me si è ripetuta anche tante altre volte, a volte discutendo con musicisti italiani o stranieri. Io dico sempre che il problema non è che nelle etichette geografiche c'è gente che vuole vendere i dischi, il problema è che lo fanno molto male. Se la Balilla avesse gli stessi manager, un chilo di pasta costerebbe 10 euro, insomma, e nessuno la comprerebbe. Ci ascoltiamo un altro brano intanto di Caroline finché si preparano per il prossimo brano. Questo è Hold On. Do you want to say something about this song? I just know that I remember when my manager at the time gave me a copy of an Italian magazine that particularly liked this song, and I know that this record had done very well here, and I wish I had come here then. Sì, dice che questo brano Hold On era stato un suo manager all'epoca, le fece leggere un articolo di una rivista italiana che diceva che era una canzone straordinaria. Lei è molto dispiaciuto che all'epoca non ebbe modo di venire a trovarci qua in Italia. Ora ci ascoltiamo questa Hold On. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Carolyn Mars and Ben. We'll Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era la Caroline Mass Rock, quella che un giornale italiano definì. You remember what did the Italian newspaper said about you? Springsteen and Gonella. Yeah, you said it very well. Avete capito tutti. Springsteen and Gonella. In effetti, all'epoca lei era spesso legata a Springsteen anche perché veniva dalla stessa zona, insomma, New York City. Probably the connection with Springsteen was also because you were coming from same area. Right, and David Landau, who was John Landau's brother, was my guitar player. And I had a saxophone player, so it was the same sort of lineup, you know, heavy piano, sax sound, and it's which is very typical East Coast R&B influence. Yes, and the Eastern band. Yeah. Si dice che aveva un sassofono, un pianista nella band, quindi il suono ricordava quello della East Street Band, specialmente della prima East Street Band, e poi il suo chitarrista era il fratello di John Landau, che era il manager di Springsteen, quindi c'erano delle connessioni abbastanza dirette. Volevo chiedere se le manca suonare con la band. Do you miss playing with such a big band? Oh, yeah, but you have more freedom, I think, when you play in a smaller context, and you also can do a lot of different kinds of music. Okay. It's a little bit more free. Yeah. Si dice che da una parte chiaramente manca quel tipo di suono pieno che può dare una band, però è anche vero che suonando in situazioni più semplici, più acustiche, come ad esempio adesso qua con Andrea, hai possibilità di spaziare molto di più, cioè sei molto più libero, e in effetti questo mi sembra che rifletta la musica che fa adesso. So this reflects more what you are doing now. Yes, and it's wonderful to cram into a van and just drive to some new place. It's totally great. Si dice anche bello così saltare su un furgone e suonare in posti completamente nuovi, come appunto le sta succedendo qua in Italia, dove fra l'altro ha anche portato suo figlio Gabriel, che ha 10 anni, e è qui in studio con noi. E, sto pensando che insomma tutti noi che pensate in musica avremmo dato qualsiasi cosa per fare una cosa del genere a 10 anni, ma anche a 20 o a 30. I'm saying that we all envy your son, because we are, as music lovers, we would love to live a life that he's living right now, you know, staying with musicians, to music, right. And seeing new places every day. Vede un posto nuovo ogni giorno. So the next song you're going to play, it's So Hard to Be True. Adesso ci canta So Hard to Be True, che è un pezzo che suona. How long have you played this? I wrote it. I actually wrote it for another band in 1986, for a band called the Fairlanes, that was kind of a blues band. A guy named Billy Hector, who lives on the Jersey Shore, but I never gave it to them. And I ended up recording it you know, a couple years later, but I'm playing it now the way that I originally wrote it. Si dice, questa è una canzone che ha scritto nel 1996 per una band che si chiamava, what was the name of the band? The Fairlanes, Billy the Hector. Fairlanes. Billy Hector, he's on Facebook. Billy Hector, potete trovarlo su Facebook, e lei aveva scritto la canzone per loro, e poi però non gliel'ha mai data. Non ho capito bene, why did you took the song for yourself? Because it just communication. I was doing a lot of stuff. I just never bothered making a tape. Was not made on purpose. You know, I just never bothered making a tape. And you know, one thing leads to another. You have an idea, and it just never. There were no more MP3 back then, so. It would have been so much easier now. You know, you can send people stuff instantaneously. Sì, dice che adesso probabilmente la canzone gliel'avrebbe data. All'epoca bisognava fare un nastro per consegnarglielo, perché la sentissero. Era un po' macchinosa la faccenda, e aveva un sacco di altre cose per la testa. Alla fine non gliela data e se l'è tenuta per lei. I'll tell you something interesting though, but a lot of people also turn away material from other people. The other song that you have for me to play, Somebody Like Me, I actually wrote it for Patti Smyth from Scandal. I actually had the opportunity to give it to her in Bremen, Germany, but everybody's writing their own songs, so few people are open to receiving the material from other people. Si dice che la canzone che ascolteremo dopo è Somebody Likes Me. Something Like Me. È la scritta per Patti Smyth. From Scandal, that band had a single called Goodbye to Me in the Goodbye to You in the mid 80s or. You know. Sì, è una band chiamata Scandal, lei aveva scritto la canzone per loro, però poi alla fine non è stata cantata da questa band, quindi se l'è tenuta. Everybody wants to write their own songs, that's what it is. Sì, perché tutti preferiscono cantare le proprie canzoni, including you, because you don't give them anyway. Well, I know how to write them, but a lot of people out there that don't know how to write and still do their own songs anyway, so it's frustrating to see. Si dice, almeno io so come scriverle, qualcuno farebbe meglio le canzoni degli altri. I'm just trying to help them out by giving them a good song instead. Si dice, sto cercando di aiutarli, ma non ci arrivano. Ok, allora ci ascoltiamo questo brano Too Hard to Be True, Caroline Mars, dal vivo qui su Rock Wave Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. Each time you walk by, tears me wide apart. A pretty face is something I can't refuse. Yeah. You see, I really love my baby, but it's so hard to be true. Your bed is warm and that your lips are so sweet, but there must be some way to be more discreet. Always looking for something different, new. Yeah. You see, I really love my baby, but it's so hard to be true. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. So Hard to Be True era stata scritta per una band blues, chiaramente. that song was for a blues band, right? Yeah, a really good blues band that I really liked a lot. Una band veramente buona, una band blues veramente valida. Specifico per chi fosse all'ascolto, visto che non siamo in televisione, Caroline è bianca, ispanica, non è nera, anche se a sentirla qui potrebbe. I'm saying to people that you are not black. Because after this song, if someone just put on the radio in this moment said, okay, this is coming from New Orleans or... That's a great compliment. That's a great compliment. It is, yeah. Because I think you know, white people, you know, try to desperately to be black, you know, and you know, we're so influenced by a lot of the R&B and blues coming out of America. That's so much a part of the culture, at least was at one point. I think I'm fortunate enough to grow up in the '60s, where it was really a part of the culture, and so it's felt innately. You know, we're just white people trying to get down. Okay, questa è un po' lunga da tradurre. Dice che ha capito, insomma, che mi era un complimento, perché dice appunto che molti bianchi cercano di essere neri, però non è una cosa così facile. Lei è cresciuta negli anni 60, quando era ancora più sentita questa comunanza, diciamo, di cose. A me sembra che adesso siano simile, anche se forse adesso i bianchi cercano di essere dei rapper. Now white people want to be rapper, they want to be right. Black in a different way. Right, they want right, to be yeah. Black criminals maybe. Right, gangsters. Yeah, yeah, si dice that, vogliono essere ci sono dei bianchi che vogliono ancora essere neri, ma vogliono essere dei gangster neri adesso, appunto, perché vogliono fare il rap. Volevo fare una domanda. Ask a question to Andrea. Tu, Andrea, hai conosciuto Caroline da poco per questo tour? Ah, sì, da pochissimo, grazie a Paride Guidetti, sì, la Roots, la Music, Roots Music Club. Ringraziamoli anche per Enrica, la collaborazione, Cesare, che hanno con la nostra radio. Squisiti, mi hanno dato questa bellissima opportunità, mi sto divertendo un sacco, stiamo viaggiando con tutti i climi possibili immaginabili. La neve oggi, vabbè, venire in Italia per trovare la neve, le ho detto, non è il massimo della vita. Volevo chiedere, tu hai suonato blues per una vita, sì, con vari musicisti italiani e anche stranieri. Sì. Che effetto ti fa quando puoi suonare con qualcuno che viene dai posti? C'è una differenza o ormai siamo riusciti a recuperare? Ma senti, io penso, questo lo dicono anche dei grandi, lo dice anche B.B. King, non è una questione di dove sei nato o di pelle, però sicuramente è una questione di cultura. Se vai negli Stati Uniti e cerchi di capire come mangiano, come bevono, come dormono, com'è la loro vita e com'è la loro musica, riesci veramente a capire qualcosa di più. Io, che ho avuto la fortuna di abitarci per un periodo e poi ci sono state altre volte, sono entrato in contatto con queste persone qua, con questi musicisti, anche con la gente comune, quindi prendi un po' tutto della loro cultura. E chiaramente quando mi capita di suonare con personaggi come Caroline o come altri musicisti, io sono assolutamente contento, perché insomma sento che sto suonando quello che mi è sempre piaciuto suonare. Bei momenti, diciamo, belle soddisfazioni. Ci ascoltiamo un altro brano che ha selezionato Caroline dalla sua discografia, il brano di cui abbiamo già raccontato la storia prima, praticamente Somebody Likes Me. Is that right? Somebody Like Me. Yeah, yeah. Somebody Like Me. E poi, not right. Likes, ok. Right. Sì, io ho capito. Somebody Like Me, please. Right. Somebody Likes Me vuol dire qualcuno a cui piaccio, mentre Somebody Like Me significa qualcuno a cui come assomiglio, me. Qualcuno come me. Quindi basta una S, just a letter, completely changed the meaning of. I wrote this song when I had pneumonia. I was staying in someone's apartment because I lived on the fifth floor of a building and I was too sick to walk up. Wow. So I stayed for a week and a half at a friend's apartment who he would be gone all day, and I was bored. And I wrote this song and I thought, oh, I'd like to give this to Patti Smyth. And I did years later. And she was nasty, very nasty person, actually. Sì, la canzone ha una storia perché l'ha scritta quando aveva la polmonite e lei abitava al quinto piano, non c'aveva l'ascensore e non era in grado di arrivare a casa per causa appunto della malattia, e quindi è stata ospite di amici che però erano sempre fuori, quindi era lei da sola in questo appartamento malata, e ha scritto questa canzone. Poi è venuto in mente di darla a Patti Smith degli Scandal, che però con lei si è comportata molto male, ha detto che le ha rifiutato la canzone, quindi se l'è tenuta. Adesso ce l'ascoltiamo. Baby, tell me why do you delay? Baby, tell me you don't hear a word that I say. The words that I pray don't make a sound. Baby, now the winter's very cold. It's warmer if you hold on. Or so I have been told. So baby, unfold and turn around. Because to love someone, oh, is everything they say it should be. I dream of you and how it could be. Sometimes reach into the night, and when you find me, doesn't it feel right for a while? I know I make you smile now and then, but to love somebody, to love someone. Rock Wave, L'onda del rock. Rock Wave Live. Rock Wave Live, questa sera abbiamo con noi Caroline Mass, una bellissima serata per noi che, insomma, le dicevo prima, io trasmetto in radio, c'è una continuità anche se i nomi sono cambiati, la radio più o meno è sempre quella, da molti anni, perché nonostante che sia molto giovane ancora, ho cominciato da bambino e appunto trasmettevo il suo disco L'Esordio nel 79, un disco che mi è rimasto nel cuore, ma anche la musica che ha fatto dopo, come avete sentito, è di altissimo livello, e quindi averla con noi questa sera è veramente una grande emozione. E io ho letto la sua biografia sul suo sito, è piuttosto lunga, dettagliata, racconta un po' quello che le è successo, e mi ha fatto venire in mente una cosa che dicono sempre gli americani, che quello che non ti uccide ti rende più forte, perché lei ha avuto veramente una vita con dei momenti estremamente difficili, eppure come potete sentire anche quando parla così, ma anche a vederla, ha una solarità, un'energia, un ottimismo pazzesco, e vi assicuro che ha passato delle cose che avrebbero schiantato chiunque. I'm telling to our listeners that I read your biography in your website, and I was thinking about something that I always heard told by Americans: what doesn't kill you makes you stronger. Because you had a lot of bad moments in your life, but still you have this optimism, this brightness that really surround your person, and you have a beautiful son as well, anche un bellissimo figliolo che adesso è andato a dormire perché insomma, ha 10 anni, sta facendo la vita del musicista on the road, quindi è anche giusto che si riposi, ma è veramente molto molto molto scaltro. E I was telling people that you had some moment in your life that were very very dark. I mean, apart from those bastards from Mercury, questa parte i signori della Mercury che le hanno praticamente rovinato una carriera promettentissima, e l'hanno mandata anche in bancarotta. They bankrupt you, basically. Yeah, they did. So you had no money at all. No. Well, I never really got any of my money during my career. My manager controlled everything, and I was young and I was kept on the road all the time, so I didn't really know what was going on. You were working like a donkey, and someone else was taking the money. Right. Sì, praticamente lei, i suoi manager le hanno anche rubato, insomma, non vedo come altro tradurlo, tutti i soldi, perché lei aveva appunto molto successo, quindi non faceva altro che suonare dal vivo continuamente, quindi era anche una cosa estremamente stancante, e loro si sono tenuti poi tutti gli incassi. E poi ha avuto anche un momento che io ho trovato allucinante, quando ha avuto un'aggressione che l'ha lasciata quasi in fin di vita. And then you have been an aggression that almost left you for dead. Yeah. So you don't remember anything of that, and then that's another one of the things in my life I had to learn to let go of, because I didn't remember anything. That's better. They never found who did it. So instead of carrying it with me for the rest of my life, I had to let it go. Yeah, much better. Si dice non si ricorda niente di quello che è successo, lei è stata accoltellata nel sonno e il responsabile non è mai stato trovato, ed è una cosa che, non ricordandosi, l'ha lasciato andare, l'ha dimenticata. Non so se questo le ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti delle persone. Did it change your behavior with other people, or you just for a while, for a little while, solo per un po'? Yeah, I moved out of New York. You know, I moved to California for a change. You know, well, I moved out of the Jersey Shore into the city, back into the city, New York, and then I moved to Los Angeles, and then to Germany for 4 years. And I think that if I hadn't have been stabbed, that I probably wouldn't have done a move like that. And it was a good thing for me. So I think sometimes it takes a bad thing to make a good, make thing, good happen. Thing happen. Yeah, that's no? great. I have to translate this. Sì, dice, dopo appunto questa esperienza traumatizzante, andò per un breve periodo, tornò a vivere le successe mentre viveva nella Jersey Shore, nella costa dell'Atlantico a sud di New York. Per un breve periodo tornò a New York, poi si trasferì a Los Angeles e alla fine decise di dare un taglio completo, di fare un cambio veramente pesante nella sua vita, e si trasferì in Germania per 4 anni, e quella fu un'esperienza arricchente. Quindi ha detto che da una cosa veramente brutta alla fine è venuto fuori qualcosa di buono, che direi che è un atteggiamento estremamente positivo. This is very positive way of living your life, find something good also out of bad experience. Yeah, because you can't change things, you can only change the way you look at them. Sì, dice, non puoi cambiare le cose, puoi cambiare soltanto il modo in cui le ripensi, le riguardi, insomma. Quello in effetti è nel tuo potere, se hai la forza. But you must have the strength to do that. Devi avere la forza di farlo. La prossima canzone è uno dei suoi classici, si intitola Sitting in the Dark, la canzone che adesso suonerà dal vivo. I was forgetting for a second what song we were going to play. Yeah, okay, I want to tell the people the story that you said yesterday about the song. Yeah, right. Ieri sera, presentando la canzone, ha detto una cosa veramente divertente, perché questo è un pezzo che anche nel suo album dal vivo Mass Hysteria dura 15 minuti. Era un brano che permetteva, insomma, lei lo teneva molto con questa tensione elettrica, e la band faceva degli assoli, insomma, quelle cose un po' che si fanno sul palcoscenico, e se l'ha fatta un po' prendere la mano. Allora la canzone diventava sempre più lunga, sempre più lunga, e in un'intervista in un giornale tedesco lei doveva tornare in Germania per una tournée dopo qualche anno che era assente, e la prima domanda che le fece il giornalista tedesco fu: quanto durerà questa volta Sitting in the Dark? E allora lei ha deciso di farla più corta, di farla della lunghezza, diciamo, normale, perché si è resa conto che forse stavano cominciando un po' troppo a prendere il controllo della canzone. Maybe the song was becoming property of the public instead of yours. It was like a thing carrying luggage after a while. Let's have another bag, you know, just lumbering along. 20-25 minutes, that's not long enough. 30 minutes, you know. Si dice, come trasportare un bagaglio molto pesante, alla fine diventa una cosa estenuante, si tira troppo per le lunghe, e allora deciso di dargli un taglio. So you carry. So tonight will be right. Standard 45 minutes tonight, right, at least. Much. Like a marathon, Sitting in the Dark marathon. Sì, Andrea ha proposto 45 minuti, purtroppo non abbiamo il tempo, diciamo che starà su una durata normale. Sitting in the Dark, Caroline Mas, dal vivo. Oh, Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era. Non so cosa sta succedendo. Questa era Sitting in the Dark, versione standard, diciamo. Questo era uno dei brani più famosi del disco d'esordio di Caroline, che è quello che portava appunto il suo nome. Lei mi diceva che questo disco, che pure all'epoca vendette molto, non ha mai ricevuto un soldo e non è nemmeno riuscita a riavere indietro la proprietà. So you were saying before that this record, your first record, is not yours. Well, none of them are. None of them really are. Nessuno mine. Di loro. I mean, the record company owns them. Mass Hysteria as well. I mean, I never saw anything from any of those records. And I did, as a matter of fact, the royalties, the publishing from whatever little, teeny little bit I had from Sitting in the Dark, my manager stole and forged the checks. And that's how... Forged the checks? Yes. That's how I found out that Sitting in the Dark was a hit. I had no idea. Ah, sì, non solo la casa discografica possiedono i suoi primi due dischi, appunto Carol and Mass e Mass Hysteria, ma il suo manager le rubò i diritti falsificando gli assegni. Complimenti, potremmo candidarlo in Parlamento in Italia. C'è posto. E è stato proprio da questo fatto che lei scoprì che Sitting in the Dark era stato un hit, e quindi aveva reso del denaro non a lei ma a qualcun altro. Mi chiedo se è stato is he been convicted for this or? No, he's dead now. è morto. Okay, non c'è modo di. What happened? David Landau was playing with Clarence Clemons. Yes, David Landau, yeah. Il suo chitarrista stava suonando con Clarence Clemons nella band. I saw him at the Stone Pony, and he said to me, "Those checks come in handy for Sitting in the Dark," because he co-wrote it with me, and I said, "What checks?" Incredibile. Allora, I called ASCAP. Lei andò a vedere la band di Clarence Clemons che suonava, e c'era appunto il suo ex chitarrista insieme, e il quale quando la vide le disse: beh, ci vengono proprio comodi gli assegni per Sitting in the Dark, perché l'avevano scritta insieme. E lei cade dalle nuvole perché non aveva saputo assolutamente niente di questi assegni. So, quindi lui ha avuto la sua parte, no? So he had his share and you didn't? I never got anything, and I went to the district attorney's office in New York, because it's forgery, it's a crime. Yes, of course it's a crime. And they suggested to go to volunteer lawyers for the arts. Okay. And I sued him, but by then he said he didn't have any money, so okay. I didn't get anything. Sì, lei andò dal procuratore facendo presente appunto che il coautore della canzone aveva avuto i soldi, mentre gli assegni che erano per lei erano stati falsificati dal suo manager, che se li era incassati a nome suo. E li fecero causa, naturalmente, andarono in tribunale, però questo personaggio disse che non aveva più un soldo, e quindi tutto finì a tarallucci e vino, come si suol dire. È veramente un peccato, e io spero che abbia la possibilità prima o poi di riprendersi questi dischi e ristamparli anche come meriterebbero, in CD con un'edizione di qualità. We wish that you have the chance in the future to get back these rights for your first records and to reprint them in a proper way with the high quality pressing. That would be great. I tried, but they don't want to do anything with them, but they don't want to let them go either. Dice che so it's ridiculous, really. Non quelli che li possiedono, la casa discografica non ne vuole fare nulla, però non vogliono nemmeno privarsene, quindi è una situazione di stallo abbastanza assurda. E quel disco si apriva con il brano Still Sane, che adesso andiamo ad ascoltare, che è stato un singolo di grande successo, ed è veramente pazzesco che chi l'ha scritto non abbia potuto beneficiare dal punto di vista economico del risultato. Now we are going to play Still Sane, and you didn't have any money also from that. No, I haven't had anything from anything. That was huge also in Italy back then. I mean, it was played everywhere. So. Yeah, there was a cover of it also, Sto con te. Yeah. Sto con te by an artist called Anna Rusticana. But they changed the words. I didn't know that. Cioè, yeah, c'è stata anche una cover italiana intitolata Sto con te. I was really mad that they changed the words, because they changed it into a love song. L'hanno cambiata, hanno cambiato il testo, hanno cambiato totalmente il significato. Yeah. Probabilmente non era facile tradurre letteralmente. It's not easy to translate into Italian with the same meaning of the word. Negrini, a guy with the last name Negrini. Negrini he è la was with some famous band. He wrote è quello words. Dei Pooh. That's right. Il paroliere dei Pooh, che è morto, mi dicono. That's right. Oh, he's dead 15 days ago, also him. Really? Yeah, sì, me l'hanno detto adesso, they told me right now. Non sono un esperto dei Pooh, ma qui in studio abbiamo delle altre persone, mi hanno detto appunto che Negrini, fra le altre tante cose che ha scritto, aveva fatto appunto la traduzione in italiano di Still Sane, che ammetto io non l'avevo mai sentito. Comunque adesso ce l'ascoltiamo, è sempre un pezzo molto molto contagioso. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Your pain. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo scoperto nel 1980 Anna Rusticano, Sto con te, la canzone. Abbiamo già una canzone per chiudere questa serata. Magari volevo sapere, chiedo a Caroline se la sente di suonare in più. Would you like to play more than one song to finish? Maybe? If it's good for you? Sure. You like it? Yeah. Because we love it. You just have to decide what to do. Si devono soltanto mettersi d'accordo su che canzone suonare. Cruel Angel. Ok. Cruel Angel, va bene, dai, così insomma, abbiamo cominciato in ritardo, finiremo un po' in ritardo, ma insomma queste sono serate particolari, quindi non possiamo concedercelo. Allora adesso ci si cantano Cruel Angel e poi ci sentiremo per i saluti e per l'ultimo brano, che è una chicca particolare. Allora, Cruel Angel, Caroline Mass dal vivo con Andrea Lupi al basso, al Fender Jazz Bass, del vecchio di 42 anni. Sì, sì. Più vecchio di te, caso. Beh, insomma. Non sa nessuno, siamo alla radio, dai. Siamo lì. Non ti vede nessuno. Bene, Cruel Angel. And then just screw little angel and me. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era Cruel Angel. E questa sera Carolyn, nell'arco di poche canzoni, ci ha trasportato in giro per varie zone degli Stati Uniti. Questo era un brano di impostatura country, diciamo. Un valzer, dice il musicista. Three fourths. To me it sounded a lot like classical country. Sì. Assolutamente. So I'm saying that in a few songs you brought us on a trip to the world of American music, from blues to country, because it's all part of, we're, you know, in the States we have, you know, at least in my generation especially, I think we have so much of that as part of us. I mean, we grew up watching variety shows that had all these guests on: Elvis Presley, Merle Haggard, Tammy Wynette, George Jones, Tom Jones, the Beatles, the Loving Spoonful. I mean, the television was filled with great music, so it was very easy to absorb everything. Yeah. Avete sentito l'elenco di musicisti che ha fatto, appunto, da Tammy Wynette, Merle Haggard, Elvis Presley, i Beatles, Tom Jones, Loving Spoonful. Praticamente quando lei era una ragazzina, in televisione si vedevano tutti questi musicisti che facevano generi diversi, ma erano tutti molto bravi, quindi c'era appunto la possibilità di assorbire tutte queste tendenze. Che il brano che avete fatto prima, che era proprio molto molto nero, invece questo è un pezzo tipicamente bianco. Yeah, I mean, you went through a very black song and this one, this last one was very white. So you are I didn't know that you were of Mexican origins. No, right? Actually, my parents were born in Puerto Rico, and they were Puerto Rico. My mother was actually Polish, Spanish, you know, Jewish and Catholic descent. My father was Catalan. Was? You know, they were Catalan. Yeah, Catalan. They were coming from Puerto Rico. Yes, so their parents and grandparents had come from other places in Europe and settled in Puerto Rico, which had been a colony of Spain. Yeah, sì, dice, lei è un risultato di un mix pazzesco, perché i suoi genitori vivevano a Puerto Rico, ma venivano da famiglie che arrivavano dall'Europa, dalla Polonia, dalla Spagna, catalano, e quindi è un insieme di influenze, di DNA mescolati, quindi probabilmente a lei bianco o nero, insomma, no. So you don't care about black or white music, white or black people, is all the same. No, because we are our souls. We are spiritual people having a human experience. We are not our bodies. Our bodies just happen to get in the way. You know, I think that we are much more than that, and we just happen to be. I wish I could remember. Maybe it was Einstein or somebody of that ilk that said that the body is just something to carry the brain around. Sì, ha detto, noi siamo delle anime che vengono contenute in dei corpi. Qualcuno che non si ricorda chi ha detto che i corpi non sono altro che un aggeggio che sarebbe trasportato in giro il cervello. E appunto dice che tutte queste distinzioni di razze o di colore sono semplicemente senza senso. E poi, ecco, lei, la musica che lei fa, secondo me, rispecchia quello che è, ed è proprio lo spirito di quello che l'America è, che ci ispira, cioè la capacità di essere un crogiolo di diverse razze, diverse esperienze, che è la loro grande forza alla fine, perché hanno un'apertura, nonostante quello che si pensi, molti americani sono ottusi, ma nel complesso la società americana ha un'apertura pazzesca e lo si sente appunto dalla loro musica. I'm saying that you are like a symbol of what USA are. I mean, it's a place where people from all around the world meet together, and sometimes the individual American, single American, can be very closed eyes, but the whole society in his total is very, very open wide to the world, and that's the strongness of the country and of your musical, of the musical world that the America has given to the world. Especially New York, I think. Being specialmente a New Yorker, New York, being a New Yorker, yeah, you're just exposed to so many different kinds of people, and you know, it's second nature. Sì, dice, la seconda natura di New York è proprio quella di essere un raccoglitore di persone. In effetti chiunque ci sia stato lo può verificare, insomma ci sono mille città che convivono insieme, è una città che ha delle, una potenza di ispirazione pazzesca, è un posto dove è impossibile annoiarsi. Ne parlavo prima con lei, per un appassionato di musica vivere a New York è come per un, non so, per un goloso vivere in una fabbrica di dolci. Rischi di ucciderti, ma non vai mai a dormire praticamente. Allora, la serata si chiuderà con un brano, l'hanno detto prima, un pezzo di Bruce Springsteen, una sua vecchissima canzone. Adesso voglio chiederle come mai. Why did you choose New York City Serenade? I started playing it in 1977. I was playing piano bar. The song was quite new back then. Yeah, I was playing. I did not know Bruce Springsteen very well. That's my son. Sì, I did not know Bruce figlio. Springsteen very well. I did not know his music, but I really liked a guy that did. And he was another songwriter, piano player, guitar player in the village at the time. And I learned this song so he would come and see me play. So who was this guy? Sorry. Bernie Shanahan. I married him. I dedicated my first record to him. But he wrote the song together with... No. This is a Bruce Springsteen song. Yeah, okay. Yeah, he covered the song. No, I covered it so he would come and see me. Lui veniva da ascoltarla mentre lei faceva il piano bar, he liked it. Perché gli piaceva quella canzone. Okay, e poi okay. È andata a finire che lei, allora, la canzone. Parliamo del 1977. Lei suonava for a guy. Lei suonava in un piano bar e non conosceva particolarmente bene Springsteen. Sapeva che a questo Bernie Shanahan piaceva molto New York City Serenade di Springsteen, e invece a lei piaceva molto Bernie Shanahan, e allora ha pensato di usare la sua arma migliore, appunto la capacità di cantare, per fare colpo su questo personaggio, e la faccenda funzionò talmente bene che poi si sposarono, quindi so the song was really working for the job if you married him. Right, I did marry him, but I would say that when I was in Italy in 2006, see, normally when I played in Germany, they didn't really like the piano ballads too much. So I got used to not playing anything on piano. When I went to Italy in 2006, there was a piano. I asked for there to be a piano at all the gigs. And I, one gig just kept going on, and I was thinking, well, what else do I know? And I thought, well, gee, I know New York City Serenade. And I played it, and they liked it so much, I started to play it every night. So that's how it happened. It happened in Italy. Sì, dice, la canzone poi l'aveva smesso di suonarla dal vivo, anche perché in Germania non piacevano le ballate col pianoforte. Lei appunto ha vissuto 4 anni in Germania, quindi ha suonato molto lì. Poi nel 2006 è venuta in Italia e voleva suonare anche un po' il pianoforte, ha chiesto che ci fosse un piano nei locali dove andava a suonare, e si è accorta che invece qui in Italia veniva molto apprezzata col pianoforte. In effetti io concordo sulla cosa, e si è resa conto che non aveva poi tantissime canzoni da fare al pianoforte. Allora le è venuto in mente che faceva una volta in passato New York City Serenade, l'ha ripescata e la gente l'ama, anche perché insomma in Italia i fan di Springsteen non mancano, e quindi adesso ha continuato a riproporla. E con New York City Serenade noi chiudiamo questo straordinario appuntamento live qui su Blu Radio Veneto per Rockwave con Caroline Mas. Ringraziamo naturalmente anche Andrea Lupi per il prezioso lavoro al basso. Che dire, io aspettavo, cioè aspettavo, in realtà non me lo sarei mai aspettato all'epoca, ma insomma l'ho scritto forse su Facebook, non so, che se nel 79 quando trasmettevo il suo disco mi avessero detto: sai, un giorno Carole Mas verrà nel tuo show radiofonico, avrei pensato che insomma, si trattava di il sogno di un qualche drogato. I'm saying that if back in 1979 when I used to play your record, someone went here and told me, you know, Caroline will be in your show one day, my answer would have been you are on drugs, right. So it was very, very an incredible big pleasure to have you here tonight, and we have to thank my you a lot, really. It was thrilling. La ringraziamo tantissimo di essere stata qua e naturalmente speriamo che possa tornare in tempi più brevi. And of course we hope that you will be back soon, and you will always be welcome here. Thank you. From our hearts, really. Chiudiamo allora questo appuntamento con New York City Serenade da Stefano Dainese. Un ringraziamento a Flavio Bilato per la regia e la parte tecnica con gli strumenti, e a Andrea per essere stato con noi. E, bene, non so che altro dire, è stata una serata meravigliosa. Grazie ancora, thank you very much, and all thank the best you. To you. Thank you so much. New York City Serenade dal vivo. Carole Mas, ragazzi, buonanotte a tutti. Jackie's heels are stabbed, Whitty's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway. He'll come on home with her. It's midnight in Manhattan. This is no time to be cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Oh, baby, don't walk at all. Tenement walls. She don't like corner boys. Ain't got no money. And they're so easy. Hey, babe, I'm easy. Won't you take my hand? Walk with me down Broadway. Yeah, I'm young and talking real brown. I'm hey. talking real proud for you. So shake away them street lights, shake away them city lights, and hook up to the train, hook up to the night train. Jug man.